Capitolo IV. L'offertorio. Torniamo al momento dell'istituzione dell'Eucaristia. In quella notte memorabile, Gesù celebrò con i suoi discepoli la Pasqua ebraica, nella quale gli israeliti commemoravano l'intervento divino che li liberò dalla schiavitù e li condusse nella terra promessa. In quegli istanti solenni, il Signore rinnovò completamente l'antico rito. Noi cristiani sappiamo che da quel momento la messa rende possibile la liberazione dal peccato e l'apertura delle porte del cielo. Ciò è stato compiuto da Cristo, in piena obbedienza a Dio Padre, mediante il mistero pasquale della sua morte e della sua resurrezione, delle quali l'Eucaristia è sacramento. Infatti, la nuova Pasqua, il passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua morte e la sua risurrezione, è anticipata nella cena e celebrata nell'Eucaristia che porta a compimento la Pasqua ebraica e anticipa la Pasqua finale della Chiesa nella gloria del Regno. Rendiamoci conto che è del tutto naturale partecipare al sacrificio dell'altare con il pensiero rivolto al Cenacolo e al Calvario. Con i modi di fare semplici e solenni di nostro Signore si realizza un prodigio ineffabile. Da quella notte, ogni volta che si compie il comando di Gesù, fate questo in memoria di me, Luca 22,19, 1 Corinzi 11,24, la Chiesa è consapevole che Cristo stesso, grazie alla presenza visibile del sacerdote, prende ogni giorno nelle sue mani il pane e il vino, li offre a Dio mediante la preghiera consacratoria, che li transustanzia nel corpo e nel sangue del Signore in virtù della potenza dello Spirito Santo, spezza il pane e lo distribuisce ai fedeli. Nell'ultima cena fu anticipato sacramentalmente l'evento unico della croce. Nella messa tale evento si rende presente anche sacramentalmente lungo i secoli. I santi padri e il magistero della Chiesa, assistiti dallo Spirito Santo, hanno a mano sviscerato il ricco contenuto delle parole e delle azioni di nostro Signore. Si sono così sviluppate le diverse tradizioni liturgiche d'Oriente e d'Occidente, che sono rimaste perfettamente fedeli a quello che Cristo operò nell'ultima cena e di nuovo insegnò nel corso del suo incontro con i discepoli di Emmaus. Non si è forse svolta in questo modo la cena pasquale di Gesù risorto con i suoi discepoli? Osserva il Catechismo della Chiesa Cattolica. Lungo il cammino spiegò loro le scritture. Poi, messosi a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Luca 24:13-35. Occorre acquisire maggior consapevolezza del fatto che solamente in Cristo la vita dell'uomo trova la sua ragion d'essere. Prendiamo in seria considerazione la realtà che Lui ha voluto utilizzare una materia di questa nostra terra, il pane e il vino, per manifestarci anche così che tutto ciò che è soprannaturale, quando si riferisce alle creature, senza perdere in nulla il proprio carattere di mistero, è non di meno molto umano. Cristo stesso si occupa, persino sul piano umano, delle nostre necessità fisiche e spirituali. I doni della creazione. Se la liturgia della parola, nell'illuminare le nostre anime con gli insegnamenti divini, alimenta la fede e ci accompagna come per mano sulla soglia del grande mistero dell'amore, ancor più grandi sono le meraviglie compiute nella liturgia eucaristica. Chiediamo allo Spirito Santo che purifichi i nostri cuori e illumini le nostre menti, che ci renda degni di approfondire questi sacri misteri. La prima meraviglia si manifesta sin dal rito dell'offertorio o di presentazione dei doni, quando si prepara l'altare e vengono portati il pane e il vino destinati a trasformarsi nel corpo e nel sangue di Cristo. In questo gesto umile e semplice si manifesta in realtà un significato molto grande. Nel pane e nel vino che portiamo all'altare, tutta la creazione è assunta da Cristo Redentore per essere trasformata e presentata al Padre. Nella messa Gesù desidera che per Lui, con Lui e in Lui, noi, membra del suo corpo mistico, partecipiamo alla sua oblazione a Dio Padre. L'Eucaristia è il sacrificio di Cristo e della Chiesa, come insegna Sant'Agostino. Ne consegue che tutta la città redenta, ossia l'assemblea e la società dei santi, viene offerta a Dio quale universale sacrificio mediante il sommo sacerdote, che offrì anche se stesso in forma di schiavo nella sua passione per noi, affinché fossimo il corpo di un così grande capo. Tale è il sacrificio dei cristiani. Pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo. Romani 12:5. Le parole che accompagnano la presentazione dei doni mostrano ciò che il Signore attende da noi. Il pane e il vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, rappresentano la creazione intera che deve essere ricondotta a Dio, dopo che si è allontanata da Lui a causa del peccato dell'uomo, grazie anche allo sforzo dei cristiani in unione con il sacrificio di Cristo. Così si pone in risalto il senso cosmico dell'Eucaristia. Essa, come spiega Giovanni Paolo II, unisce il cielo e la terra, comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per restituire tutto il creato in un supremo atto di lode a colui che lo ha fatto dal nulla, e così restituisce al Creatore e Padre tutta la creazione redenta. Nella stessa prospettiva, Benedetto XVI osserva che noi portiamo all'altare anche tutta la sofferenza e il dolore del mondo, nella certezza che tutto è prezioso agli occhi di Dio. Questo gesto, per essere vissuto nel suo autentico significato, non ha bisogno di essere enfatizzato con complicazioni inopportune. Esso permette di valorizzare l'originaria partecipazione che Dio chiede all'uomo per portare a compimento l'opera divina in lui e dare in tal modo senso pieno al lavoro umano che attraverso la celebrazione eucaristica viene unito al sacrificio redentore di Cristo. Rinnoviamo la nostra ardente aspirazione di prendere parte alla nuova evangelizzazione per portare il mondo al Signore. Desideriamo mettere Cristo al vertice di tutte le attività umane, come ripeté instancabilmente San José María. Anche il nostro lavoro professionale, la nostra vita familiare, le nostre relazioni sociali sono simboleggiate in questa materia della quale il Signore si serve per rendere presente il suo sacrificio sul Golgota. Risulta consolante rendersi conto che nulla di ciò che è retto nella vita dell'umanità rimane separato dall'offerta a Dio Padre per mezzo del Figlio con lo Spirito Santo. Il contributo dei fedeli. L'offertorio non consiste in un rito meramente esteriore, in un atto realizzato dal sacerdote al quale i fedeli si limitano ad assistere. Oltre a costituire la materia dell'Eucaristia, il pane e il vino simboleggiano il dono della nostra stessa vita. Né dimentichino i cristiani di offrire col divin capo crocifisso se stessi e le loro preoccupazioni, dolori, angustie, miserie e necessità. Ciò si rivela possibile, anzi è addirittura necessario, affinché tutti i battezzati vivano quella loro caratteristica sacerdotale che li assimila profondamente a Cristo. Ora solo la Chiesa offre questa oblazione pura al Creatore, offrendogli con azione di grazie ciò che proviene dalla sua creazione. Pensiamoci con calma. Nel mettere sulla patena e nel calice le nostre azioni, non ci limitiamo a porle accanto o insieme alla materia dell'Eucaristia, come fossero qualcosa di distinto e separato. Se così fosse, il nostro contributo sarebbe privo di valore. L'importante non è quello che noi portiamo, ma ciò che il Signore compie. Cristo assume la nostra offerta, persino le nostre mancanze se ci correggiamo e chiediamo perdono, quando idealmente l'abbiamo unita con il pane e il vino destinati a diventare il suo corpo e sangue. In questo modo siamo incorporati all'offerta della sua vita e morte, offerta da lui affidata alla sua Chiesa. Il dono della nostra vita e del nostro lavoro risulta gradito a Dio. Nell'Eucaristia tutto ciò che è di Cristo è nostro, e tutto ciò che è nostro appartiene a Gesù. San José María lo diceva con grandissima gioia. Gli serviva di consolazione e di stimolo per convertirsi ogni giorno, sforzandosi di non calare di tono. Dio Padre, nel guardare l'offerta del capo unito al corpo mistico, non fa distinzioni tra Gesù e noi. Contempla in ogni cosa l'amore e l'obbedienza del Figlio prediletto, nel quale si compiace. La liturgia lo sottolinea nel prescrivere che si aggiunga un po' d'acqua al vino. Quelle gocce, lo sappiamo bene, ma conviene penetrare a fondo nel significato di questo gesto, rendono presente la nostra partecipazione al santo sacrificio. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Domandati se questa affermazione desta un particolare richiamo nella tua anima. Meditiamo nuovamente alcune parole molto chiare. Tutti voi avete anima sacerdotale, fondata sui caratteri sacramentali conferiti dal battesimo e dalla cresima. Un'anima sacerdotale che non fate agire solamente quando partecipate al culto liturgico e in particolare al sacrificio eucaristico radice e centro della nostra vita interiore, ma in tutte le attività della vostra vita. Con mentalità pienamente laicale, esercitate uno spirito sacerdotale nell'offrire a Dio il lavoro, il riposo, la gioia e le contrarietà della giornata, l'olocausto dei vostri corpi spossati dallo sforzo di un servizio costante. Tutto ciò è sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Romani 12:1. Nel pane e nel vino viene rappresentata tutta la nostra esistenza. Il lavoro e il riposo, la salute e la malattia, le gioie e le preoccupazioni familiari, i progetti coronati da successo e anche quelli falliti, che il Signore permette per il nostro bene. Cristo vuole prendere tutto su di sé e lo unisce alla materia del pane e del vino per offrirlo con il suo corpo e con il suo sangue al Padre nella potenza dello Spirito Santo. Queste realtà, come numerosi altri aspetti del sacrificio dell'altare, riempiono l'anima di gioia. Come non meravigliarsi del fatto che Dio voglia fare di noi una cosa sola con Lui per condurci al Padre grazie al Paraclito? Non fraintendiamo. La fortezza sovrumana della santità dei martiri, dei confessori della fede e delle vergini, come pure la stessa fortezza necessaria per santificare la vita ordinaria in ambito familiare e lavorativo, trovano la loro spiegazione unicamente nell'amore per il crocifisso che ci ha aperto di nuovo le porte dell'amicizia con Dio. Un'amicizia che, pur essendo divina, non trascura nulla della vita di noi che siamo Suoi figli. Assistere in questa maniera alla Santa Messa vuol dire dare rilievo soprannaturale ai nostri doveri, dimensione di eternità alle nostre povere e modeste offerte. Capiamo perciò il motivo per cui risulta indispensabile sforzarci ogni giorno di più per mettere sulla patena e nel calice la nostra vita tutta intera. Non c'è nulla di più coerente della risposta di quel sacerdote santo, il quale, quando qualcuno gli confidava una necessità fisica o spirituale, rispondeva immediatamente che il giorno successivo l'avrebbe posta in modo speciale sulla patena della sua messa. Non dimentichiamo pertanto che soltanto se vengono unite al sacrificio di Cristo le nostre azioni acquistano un valore di corredenzione. Quanto più le presentiamo intensamente ogni giorno nella messa, tanto più ci identifichiamo con nostro Signore lungo la giornata. Così, mentre svolgete la vostra attività nelle viscere della società, partecipando a tutti gli aneliti nobili e a tutti i lavori onesti degli uomini, non dovete perdere di vista il profondo senso sacerdotale che possiede la vostra vita. Dovete essere mediatori in Cristo Gesù per portare a Dio tutte le cose, affinché la grazia divina vivifichi tutto. Ben volentieri mi prodigherò, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Seconda Corinzi 12:15. Sentimenti di umiltà. Prima di terminare l'offertorio, il sacerdote considera nuovamente la propria indegnità e dice, inclinandosi profondamente di fronte all'altare, «In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine». In questa orazione ci troviamo inclusi tutti e ciascuno. Umili e pentiti accoglici, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Irrompe di nuovo il ricordo della nostra miseria e il desiderio che sia limpido e purificato tutto quanto è per il Signore. Mi lavo le mani, amo la bellezza della tua casa. Tutti dovremmo fare molto nostri questi sentimenti di sincera umiltà. Chi siamo noi perché Cristo abbia voluto associarci tanto intimamente a Lui? Solo uno spirito umile, un cuore contrito e in condizioni di avvicinarsi il meno indegnamente possibile all'altare. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato, recita sottovoce il sacerdote. Cerchiamo di prendere sul serio la sua supplica mentre si lava le mani durante il lavabo. Poi, ormai sul punto di incominciare la preghiera eucaristica, consapevole che tutto è un regalo divino e che l'uomo da parte sua non può nulla, il celebrante esorta i fedeli con l'orate fratres. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Viene così ricordato che tutti concorrono attivamente alla presentazione delle offerte, per quanto non si muovano dal loro posto. Perciò il popolo cristiano, parlando ad una sola voce e alzandosi in piedi, come per sottolineare la propria piena partecipazione all'azione liturgica, risponde: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. San José María insiste che l'offerta ridondi per la salvezza di tutti. Orate fratres, prega il sacerdote, perché questo sacrificio è mio e anche vostro, di tutta la Chiesa Santa. Pregate, fratelli, anche se siete pochi voi qui riuniti, anche se non fosse materialmente presente più di un cristiano, e anche se ci fosse solo il celebrante, perché ogni messa è l'olocausto universale, riscatto di tutte le tribù e lingue e popoli e nazioni. Apocalisse 5:9. L'orazione sulle offerte, con la quale si conclude questa prima parte della liturgia eucaristica, propone con sfumature diverse la partecipazione dei fedeli all'offerta del sacrificio di Cristo. Durante uno dei primi giorni della Quaresima leggiamo queste parole espresse dal sacerdote a nome del popolo cristiano: Accogli, Signore, queste offerte, segno della nostra devozione. Perdonaci nella tua misericordia e trasforma tutta la nostra vita.